Palla Spicchi con Carlo Genta. Mike D'Antoni pick it up in the first quarter and Danilo Gallinari on fire from the perimeter. Wide open, knocks down the three ball. Knicks jump out to an 8-point lead. Danilo Gallinari on fire, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Danilo Gallinari esploso e noi abbiamo qui Vittorio Senior. Gallinari Senior, ciao Vittorio. Ciao, ciao a tutti. Ciao Coach Dan Peterson, Sport Italia e Radio 24, la nostra voce. Ciao Coach. Ciao ragazzi, Gallo un abbraccio. Okay? Salve Coach. Allora, Danilo è esploso, abbiamo sentito prima un pezzo di telecronaca, Danilo on fire in settimana, insomma è tornato Vittorio e dagli Stati Uniti e Danilo ha cominciato a farne almeno 20 a partita. Coach. Eccomi qua, well, ovviamente Gallo è un grande, quindi dà dei ottimi consigli, ma anche bisogna dare grande merito a Danilo, alla squadra e a Mike perché hanno resistito un momento non facile contro una grande squadra, Phoenix, che in quel momento aveva il miglior record nell'NBA, con gli ottimi giocatori, capace anche di marcare Danilo, ma Danilo ha combinato tutto per essere l'uomo chiave in una vittoria. C'è l'altra partita in cui ha fatto il career high di 30, non hanno vinto la partita, e questo lui ha il doppio soddisfazione, Danilo, di aver fatto quello che ha fatto, 26 punti, 10 rimbalzi e un paio di assist, un paio di stoppate, in una grande vittoria a Madison Square Garden contro una grande squadra. Quindi questo indica quello che può fare lui. Ha fatto anche 36 minuti nella partita, qualche minuto forse troppo di quello che vorrebbe fare Mike, ma per la vittoria Danilo ha messo un po' di extra e quindi sono contento per tutti. 800-24-00-24, numero verde per parlare con noi. Come sta il ragazzo? Perché la settimana scorsa c'è stato qui con noi Charlie Recalcati e ne parlavamo insieme. Charlie diceva deve utilizzare questa parte di questa stagione strana per mettersi definitivamente alle spalle ogni strascico di problema fisico. Sì, lui dopo l'operazione adesso gioca, non ha problemi alla schiena. È chiaro che lui è stato operato ad aprile, ha avuto davanti l'estate e a settembre è subito ripartito con la squadra, quindi magari poteva avere bisogno di un mesetto, un paio di mesi in più per sistemarsi definitivamente, cosa che adesso giocando tutti i giorni chiaramente non può lavorare più di tanto, però per adesso non ha nessun tipo di problema, per cui ritengo che insomma non abbia neanche la necessità di doversi fermare per fare qualcosa di particolare. Sta giocando discretamente, non ha problemi alla schiena, quindi direi che toccando ferro le cose stanno andando bene. Avete detto a LeBron James che si era informato e ragazzo come va quella schiena? Quella è stata veramente una cosa stranissima e particolare, perché tra l'altro io ero lì alla partita e dopo la partita, quando LeBron prima di andare via è andato lì, ha parlato con lui un paio di minuti a centrocampo, cioè i giornalisti erano impazziti, nel senso che non interessava più della partita, di come era finita eccetera, ma sono andati tutti lì perché volevano sapere cosa gli aveva detto. Coach, anche Steve Nash ha fatto i complimenti a Danilo, hai visto? Ho letto sulla Gazzetta dello Sport, è un fenomeno, ma anche Mike D'Antoni, ovviamente io e Gallo forse avevamo da lui più vicino Danilo, Gallo ovviamente sopra ogni altra persona, io l'ho visto qui ovviamente a Milano, anche durante la parte diciamo quando giocava juniores e altre cose, venire fuori a Milano, avevamo anche noi questa idea, perché Danilo ha tre o quattro cose che vanno insieme: all'altezza giusta per il suo ruolo, è un buonissimo atleta, perché la gente non lo sa, ma Gallo, Vittorio, padre, è stato un grande atleta, cioè le nostre preparazioni atletiche in pre-stagione, Gallo ha stracciato tutti, 8 chilometri, finiva Gallo 5 minuti prima degli altri, gli suicidi, riceve tutti Gallo. La mamma Marilisa, ex 200ista, cioè a livello nazionale juniores, quindi Danilo è un buon atleta. Poi, cominciando giovani, diversamente dal padre Gallo, che è cominciato tardi e quindi non aveva quella fluidità nel leggere il difeso, tirare eccetera, Danilo ce l'ha, tira benissimo, infatti Mike dice che è il miglior tiratore che abbia mai visto. Aggiungiamo due altre cose, cioè, o tre altre cose. Uno, è un ottimo ragazzo, cioè proprio dice non mi interessano le cose individuali, sono qui per la squadra. Aggiungiamo anche grandissima intelligenza personale e cestistica. E la quarta cosa che lui l'altra cosa che lui è veramente attributi, cioè un combattente, un vincente, un campione che vuole, che sta lì per vincere partite. E quando tu metti queste cose insieme, e aggiungo anche ciliegino sulla torta, solo 21 anni, va per 22 a 8 agosto, quindi ragazzi, è giovane, giovane, giovane ancora, quindi grande futuro davanti a lui. E Knickerbockers e New York sono stracontenti come siamo noi. Situazione non facile però anche da un certo punto di vista. Hai parlato di Mike D'Antoni, sia per Mike D'Antoni che anche per Danilo, che si trova in una squadra dove sostanzialmente la maggior parte dei giocatori non ha contratto, e quindi insomma è una situazione anche non poi così agevole, no? Per cominciare a calarsi in questa dimensione. Però per lui, che dicevi coach, è giocatore di squadra, esatto. Si trova in una squadra non competitiva, sicuramente non competitiva. No, quest'anno no, però io dico questo, cioè, è vero quello che state dicendo, che ci sono 6, 7, 8 giocatori della squadra che finiscono contratto quest'anno, però maggior ragione ancora per giocare bene, per mettersi in vetrina, sperando che non giocano per loro stessi individualmente, ma per il bene di New York Knickerbockers, perché sono giocatori che possono anche far vincere la squadra. E se la squadra vince, secondo me il loro valore sul mercato si alza, cioè possono rifermare con New York o andare altrove. Comunque va bene per tutti se loro giocano bene e se la squadra vince. Quindi, e Danilo è un giocatore di squadra, e secondo me lui forse adesso è il collante. Ho letto il commento di Chris Doohan: dobbiamo andare più a lui, perché quando lui gioca bene, lui fa anche tutte le altre cose, difese, stoppate, assist, recuperi, eccetera, e fa tutti noi altri giocare meglio. Quindi è un grande complimento da Doohan. Grazie coach, sentiamo venerdì ciao, prossimo. Ragazzi, ciao ragazzi, un abbraccio coach. Ancora. Grazie a Cosdan Peterson, adesso ci fermiamo per il traffico, naturalmente ci teniamo Vittorio Gallinari con noi per questa ora insieme. Vi ricordo il contatto 800 24 00 24 per le vostre telefonate, parleremo anche di Eurolega naturalmente, abbiamo visto le partite tra ieri e l'altro ieri, Roma che si conferma squadra in difficoltà, a corrente alternata la partita giocata in Spagna in casa del Calaboral. Quindi Siena, che dopo un primo tempo difficile è tornata a vincere, l'ha fatto ieri largamente alla fine con il Cibona Zagabria, e Milano che insomma non va neanche vicina all'impresa sul campo del Panathinaikos. Palla spicchi. Provate con noi Vittorio Gallinari. Allora Vittorio, abbiamo accennato ai risultati di Eurolega, si diceva, parleremo tra poco della crisi di Roma, di Siena che è tornata dopo la sconfitta con il Barcellona eccetera, ma Milano che ieri sera ha giocato una partita che nessuno chiedeva di vincere, però insomma sul campo del Panathinaikos Atene subito sotto in maniera pesante nel primo quarto, rimonta, ripresa, sconfitta alla fine onorevole, come ci siamo abituati a dire seguendo un po' il rugby, però, sì, però 5 su 6 adesso, però sconfitte 5 su 6, spalle al muro, poi insomma in linea con il budget, direbbe qualcuno all'Armani, perché budget inferiore rispetto alle altre. Beh, di Eurolega, però manca, è sempre un po' grigio il colore, non solo del cielo. Secondo me la partita di ieri è stata condizionata dall'inizio, partire 27-12 chiaramente ti condiziona, poi dopo rientri, ma alla fine probabilmente non hai le energie per portare a casa la partita. Ieri poi rientrava anche Josikevicius, quindi loro erano carichi al completo. È chiaro che Milano ha avuto questo inizio un po' condizionato onestamente anche dagli infortuni, perché regalare l'avversario uno come Petravicius sotto canestro non è una roba di tutti i giorni. Adesso c'è il discorso di Hacker, che è infortunato, potrebbe essere sostituito, e chissà mai che possa arrivare un giocatore che possa creare un po' di più per la squadra, portare un po' più di fantasia, un po' più di creatività, che secondo me è la cosa che manca a Milano in questo momento qua. Un giocatore che dia un po' di fantasia, un po' di creatività. Manca l'uomo delle lampadine. Un paio di settimane fa abbiamo sognato tutti insieme, abbiamo giocato a Fantabasket, no? Sull'onda di una copertina di Superbasket appunto di un paio di settimane fa. Iverson ha firmato, poi vi faccio sentire anche come tra le lacrime a Filadelfia, lacrime di emozione, di commozione, ritiro che è durato meno di una settimana, minimo sindacale per lui, delle cifre che in fondo Milano sarebbe anche potuta permettere. L'anno scorso eravamo qui a parlare con te della possibilità, dell'opzione che c'era stata su Stephon Marbury. Giocatori che magari non avrebbero fatto vincere lo scudetto l'Eurolega a Milano, però avrebbero portato al palazzetto un po' più di quei 2000 che ci sono, che rappresentano secondo me il vero problema della pallacanestro a Milano in questo momento. Sei Milano è un pubblico particolare, o vinci, e in quel caso nel momento in cui vinci la gente viene, come vedi nelle finali eccetera, si fa sempre il pienone, oppure le deve attirare con dei nomi, con qualcosa di particolare. Effettivamente il discorso Iverson, il discorso Marbury eccetera, avrebbero catalizzato un po' l'attenzione non solo dei tifosi di basket ma un po' generale, quindi probabilmente acquisivi anche tifosi che venivano per la prima volta al campo a vedere l'Armani, tifosi che poi magari ti portavi dietro anche successivamente. È chiaro che portare Iverson, portare Marbury, bisogna avere le spalle grosse, voglio dire, dopo devi gestire questi giocatori e la cosa non è facilissima. Una volta magari con Peterson ai nostri tempi portavi Antoine Carr, McAdoo eccetera e riuscivi a inserirli in un contesto, c'era una squadra, c'era un contesto, giocatori, noi eravamo assieme da 6, 7, 8 anni, per cui potevi inserire e gestire qualsiasi tipo di americano o di giocatore straniero. Adesso magari è un po' più difficile. Sì, tra l'altro a me sembra strano una sorta di basso profilo, Carlo, l'abbiamo fatto diverse volte questo discorso, il basso profilo che ogni tanto Milano fa a fronte comunque di un nome molto altisonante come quello di Armani, cioè discorsi come quelli che diceva Carlo prima, di budget, di mancanza di competitività dal punto di vista europeo, mi sembrano strani, ecco, a questo livello. Tu hai vissuto la grande Milano. Sì, sì, sai, io ho vissuto a Grande Milano, erano altri tempi, devo essere onesto, una volta riuscivi a creare dei gruppi di giocatori che portavi avanti per anni, nei quali ogni anno, quello che sta facendo Siena cosa sta facendo? Ha inserito un gruppo di giocatori e ogni anno mette dentro un giocatore nuovo che è quello che potrebbe servire per farle vincere magari l'Eurolega. Milano questo non è ancora riuscito a farlo, a creare un gruppo di giocatori nel quale inserire ogni anno una faccia nuova che dia quel qualcosa in più alla squadra. Ci ha provato l'anno scorso e purtroppo quest'anno ha cambiato secondo me troppi giocatori rispetto all'anno scorso, creando una situazione ancora nuova da assemblare. Tanti gli ascoltatori che sono già in linea, anche quelli che scrivono messaggi, c'è questo, prima di passare a Stefano, Alberto, Fabrizio che sono al telefono, c'è questo che ti scrive Fabio da Milano. Se i Knicks facessero la squadra intorno a Danilo, è una bestemmia questa, scrive Fabio. Ma guarda, i Knicks devono rivoluzionare la squadra, devono fare la squadra. È evidente che punteranno a prendere qualche free agent tipo LeBron, tipo Bosch, eccetera. Ma prendono LeBron James o no? Te l'avrà detto LeBron. Non l'ha detto a Shaquille O'Neal, a te l'ha detto, tu sei un agente dei più quotati. Non so se l'ha detto a Danilo, se viene a Danilo, a me non l'ha detto, quindi tutti si sperano comunque, ecco, se Danilo potesse far parte di questa squadra sarebbe già per lui un grosso onore, per cui già il fatto di restare qua, restare a New York nel momento in cui arrivano giocatori così importanti è già una gratificazione importante per lui. Rimane un'ombra di preoccupazione che noi abbiamo e l'abbiamo manifestata a Charlie Recalcati una settimana fa, lui stesso diceva, insomma, Danilo è giocatore di squadra, scusa se facciamo prima con il coach, è giocatore di squadra, è giocatore che ha bisogno di una squadra per rendere al meglio, per far rendere al meglio la squadra, si trova in una situazione molto particolare, può essere un rischio per lui giocare una stagione di questo tipo? Guarda, io sul discorso di Danilo e l'NBA i miei dubbi erano che lui ha una mentalità europea, una mentalità italiana, esatto. Lui piace giocare di squadra, non è un individualista. Faccio una piccola parentesi e dico che secondo me i risultati negativi della nazionale, non voglio esaltare Danilo per carità, però la presenza di Danilo avrebbe forse aiutato anche il rendimento di Bargnani e Bellinelli in nazionale, perché lui è un giocatore che ama giocare di squadra. È chiaro che nell'NBA si gioca in modo diverso, tranne le grosse prime 3-4 squadre, le altre giocano in modo completamente diverso. Adesso lui è in una fase in cui sta cercando di adattare il suo gioco alla realtà dell'NBA. Se riesce a mixare queste cose, probabilmente riuscirà a conservare le sue caratteristiche da giocatore europeo. Sì. Con quello che gli viene chiesto di fare a New York, che ci sta provando comunque. Che è il suo grosso valore aggiunto, avere questo DNA europeo dal punto di vista cestistico, naturalmente. Stefano, provincia di Milano, buongiorno. Grazie di esistere, Radio 24. Adesso. Io sono un vostro grande ammiratore e condivido l'interesse per il gioco di squadra che ha appena esposto il vostro interlocutore, e penso che nella nazionale si deve inserire a tutti i costi Massimo Chessa, Pietro Radori, Niccolò Melli, Martinoni, per allargare la nostra base. Sì, sicuramente. Certamente, questo certamente, si tratta però di capire chi allenerà, perché ancora non è chiarissimo. No, le ultime dicono che pare ci possa essere un contratto di 3 anni pronto part-time. Per Simone Pianigiani, però d'altra parte ci sono state dichiarazioni anche del presidente Petrucci che invece pare spinga per un coach full time, quindi bisogna anche capire chi la spunta alla fine. Sì, e bisogna anche sapere. Magari lui lo sa, Lui, sai? Lui chi? Non tu. So. Dici qualcosa. No, assolutamente non so se questa diatriba fra full time e part time. Ma tu come la vedi? Secondo te è secondo me, arriverà Pianigiani part time. Sono d'accordo. Poi lo dici tu, quindi sarà vero. Non ho canali particolari. Senti, ma è la soluzione giusta secondo te, la soluzione corretta? Ma io ritengo di sì, nel senso che Pianigiani ha dimostrato di poter gestire squadre importanti con giocatori importanti, ha le capacità per farlo, è indubbiamente l'allenatore che in questo momento qua ha il nome più importante in Italia, se togliamo Scariolo, Messina che sono all'estero, e penso che anche a livello proprio di personalità e di credibilità sia l'allenatore giusto per la nazionale. Poi come diceva il nostro ascoltatore, i giovani che comunque stanno continuando ad emergere in questo campionato, Chessa è una faccia assolutamente nuova, Aradori si sta confermando a livello sempre più alto, Melli è da Reggio Emilia, giovane di grande talento, deve ancora crescere eccetera eccetera, però insomma un gruppo di giovani c'è. Poi ci sono Bagnani, Berinelli e Gallinari, no? Sì, no, io direi che, voglio dire, se la vogliamo vedere così in modo asettico da fuori, la nazionale ha un ricambio generazionale buonissimo. Questi nomi che tu hai citato sono giocatori, è vero, giovani, però tipo Aradori o stesso Melli hanno già esperienza, sì. Sono giovani ma hanno già giocato delle stagioni in Serie A, per cui c'è un gruppo di giocatori, ritengo 10-12 giocatori sui quali lavorare per poter costruire la nazionale del futuro. E Danilo viene, giusto? Cioè... Danilo, il suo sogno è sempre stato quello di giocare in nazionale, credo che ha provato in tutti i modi, anche l'anno scorso col mal di schiena è stato con la squadra fino all'ultimo momento, non è mai riuscito, cioè lui non è mai riuscito a giocare in nazionale. È verissimo. Palla spicchi. Dunque, volevamo andare in provincia di Lodi, ma l'ascoltatore evidentemente è caduto, lo riprendiamo tra un attimo. Fabrizio, provincia di Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, due domandine veloci e una considerazione. Le domandine veloci sono: uno, perché i giocatori nostri che vanno in NBA non riescono ad andare subito in una grande franchigia che gli possa far vincere comunque qualcosa? E la seconda cosa, se secondo voi i Boston Celtics e i Lakers sono le candidate alla finale? E l'ultima, su Pianigiani, è il miglior allenatore che abbiamo, però fare allenatore nazionale vuol dire essere anche un selezionatore, avere a che fare con teste che non hai sotto le mani tutti i giorni, quindi è un rischio comunque a mio parere. Il rischio, ma intende come tipo di allenatore o per il discorso del part time? No, per il discorso del part time, il tipo di allenatore è 3-4 anni che stradomina. Sì. No, certo. Guardi, lei, non so se ha sentito Cesare Calcati una settimana fa, che è stato allenatore part time della Nazionale e di Siena, come ricordiamo bene, sì. Tra l'altro era part time negli anni in cui l'Italia vinceva, qui è arrivata la medaglia di bronzo agli europei, l'argento olimpico, certo. Eccetera, era un allenatore part time, diceva potevo fare allenatore part time perché avevamo un'organizzazione che faceva tutto il lavoro, quindi esatto. Il discorso del part time si può fare, però ci deve essere una struttura che azzurra che oggi è tutta da inventare. Sì, grosso modo sì. Quanto alle altre due considerazioni, allora il primo è un discorso molto interessante che facevamo appunto ancora una settimana fa. Italiani che vorremmo vedere in squadre vincenti, ovviamente nell'NBA, italiani che devono far diventare vincenti le loro squadre, mi viene in mente Ginobili, sono due discorsi diversi ma connessi. Per quanto riguarda italiani In squadre di vertice dipende da questione di mercato, no? No, ma no, dipende essenzialmente da questione di scelte, nel senso che gli italiani, Bargnani è stato scelto col numero 1, Toronto aveva la scelta numero 1, ha preso Bargnani, Danilo è stato scelto col 6, New York aveva il 6, cioè è evidente che le scelte più alte le hanno le squadre più deboli, questa è una logica. Quando scade il primo contratto, probabilmente nel secondo contratto, allora è il momento in cui puoi cercare di cambiare squadra e a quel punto magari andare in una squadra vincente. Però la prima squadra, diciamo che non te la scegli te, sì, è la squadra che scegli te, quindi non hai molta voce in capitolo. Quanto a, dimmi. Non potrebbe anche essere, da un certo punto di vista, un discorso di caratteristiche queste scelte? Tu dici benissimo, Toronto aveva la scelta numero uno, preso Bargnani, però per esempio il discorso di Danilo, Danilo l'hanno preso i Knicks col numero 6, magari qualche altra squadra che aveva la scelta più alta voleva un giocatore di caratteristiche diverse, proprio la mentalità europea di cui parlavamo prima. Può essere da una parte un pregio, cioè il giocare di squadra e tutto quello che vuoi, ma dall'altra parte un freno. Ma che, sì, puoi aver ragione, però ti ricordo che, non so, Danilo è stato scelto al 6, ma il 5 l'aveva Minnesota, il 4 l'aveva, non so, cioè l'avevano, cioè, squadre deboli, detto, quindi certo. È difficile. Solamente nel momento in cui c'è una prima scelta che sposta veramente, tipo LeBron eccetera, allora la squadra debole a quel punto, con la prima scelta assoluta, potrebbe anche cambiare proprio la fisionomia della squadra. Ricordi i contatti 800240024, numero verde, messaggi 349-238-6666. Divagando un attimo e tornando alla pallacanestro italiana, volevo parlare un attimo con te, Vittorio, di Roma. L'altra sera l'ho vista giocare in Spagna. Sappiamo di contestazioni, sappiamo di rapporti tesi tra pubblico e Gentile. Tra l'altro Gentile ne ha parlato anche in settimana, dicendo non mi dimetto, ma le contestazioni mi scivolano addosso, sono abituato a lavorare nel basket con ben altri problemi, eccetera eccetera eccetera. Anche l'altra sera una squadra che va a corrente alternata, accendi spegni, quando è sotto in maniera vistosa ha le energie per rimontare, ma mai in maniera compiuta, poi si spegne di nuovo. È chiaramente una squadra che ha qualità ma ha tanti problemi. Sì, Roma è un po' un enigma quasi irrisolvibile, nel senso che in questi anni ha investito molti soldi, per cui accusare Totti, insomma, non è molto facile. Lui ha investito veramente tanti soldi in questi anni, però non sono riusciti a creare, secondo me, una struttura sia societaria che di squadra che potesse dare continuità. Hanno preso dei grandissimi giocatori, hanno tenuto una stagione o metà stagione e poi li hanno cambiati. Non sono riusciti a creare un gruppo coeso fra giocatori, allenatore e società che potesse dare continuità. Ci stanno provando quest'anno con Nando, con Gentile e con una serie di giocatori italiani per creare un gruppo da portare avanti negli anni futuri. È chiaro che la contestazione non aiuta con questo lavoro. Contestazione non aiuta questo lavoro, però è anche comprensibile che dopo tante stagioni vissute all'ombra di Siena, dopo tante incompiute, la gente di Roma abbia... Ma io credo che la contestazione sia figlia del passato più che del presente, nel senso che gli anni che sono passati hanno portato a questa contestazione. Problema mentale anche, secondo me, perché comunque Roma, il primo tempo di Siena ci ha fatto vedere una squadra che sembrava in grado comunque di poter giocare a quel livello, cioè di potersela giocare con tutti. Poi è chiaro che arrivano le prime difficoltà e il problema ti porta, insomma, a calare di rendimento, però credo che sia anche mentale il discorso. Sì, tu hai centrato proprio il problema. I primi due quarti della partita con Siena Roma ha giocato benissimo. Poi la grande squadra che è Siena ha continuato su quel livello, Roma è calata di intensità. È calata di intensità e la differenza è stata lì. Se Roma riuscisse, fra virgolette, a tenere questo livello mentale di intensità per 40 minuti, diventa veramente una squadra che può andare a sfidare Siena. Chi ti piace come modo di giocare in questo campionato? C'è Caserta che sembra essere la nuova realtà. Avellino adesso è un po' in calo. Togliamo Siena, che oggettivamente non c'entra e si gioca le chance in Eurolega. A me piace Caserta, devo dire che Claudio Coldebella ha fatto un buonissimo lavoro, sì. È una squadra divertente, che sa divertire e nello stesso tempo gioca bene. È da vedere quando avrà le prime difficoltà, io spero che vada sempre bene, che vinca sempre, però la valutazione si fa nei momenti difficili che capitano sempre durante una stagione. ma è la squadra che assieme a Siena mi ha impressionato di più. Avellino ha avuto una partenza anche un po' facilitata dal calendario, sì. E alle prime difficoltà è tornata un attimino a livelli normali. Sono curioso di vedere Bologna quando rientrerà il play titolare, quando rientrerà Collins, vedere il tipo di reazione che ci sarà. Bologna, al di là della sconfitta di domenica, mi sembra comunque una squadra in costante progresso. Lardo sta facendo l'ennesimo buon lavoro a Bologna, anche se è ancora molto presto per valutarlo in maniera completa. Due invece sono le squadre che non riesco a leggere. Una è Pesaro, che è ancora lì al palo, pur essendo una squadra con un roster anche di discreta qualità. Poi parli con la gente di Pesaro, no, ma i giocatori ci tengono, si allenano, vanno d'accordo, eccetera. Allora perché perdi tutte le volte? Pesaro è abbastanza misterioso. Questa è una bella domanda. Però. A Milano hanno avuto praticamente paura di vincerla, perché la partita non dico che l'avessero già vinta. Ma... ho capito, ma la paura di vincere ti viene per forza, parti 0-6. È normale che ti venga paura di vincere, la paura di perdere, la paura di qualunque cosa, anche della tua ombra. Pesaro così, e poi un'altra che mi sembra non stia abbia una crescita molto ondivaga e sclerotica, è Treviso. Sì, allora per quanto riguarda Pesaro, secondo me manca una scintilla, nel senso che, come dicevi prima, loro hanno perso all'ultimo momento a Milano. Loro hanno bisogno, secondo me, solo di una vittoria per far tornare la fiducia. Il problema è che quando cominci a perdere ti viene la paura di non saper vincere, quello è il grosso problema. E invece Treviso ha puntato un po' sui giovani, ha sbagliato onestamente l'americano, che adesso cambiano, per cui quando punti sui giovani devi aspettarti dei risultati un po' altalenanti. Sì, un po' altalenanti, ne parlavamo con Flavio Tranquillo anche qualche domenica fa, insomma, ha tante scommesse aperte, tanti giovani, tante scommesse aperte, non solo Montejunas. Treviso, se solo a fine stagione riuscirà ad incassare un paio di queste scommesse, ne sarà valsa la pena. Invece, a proposito di squadre impressionanti, sempre con Flavio Tranquillo, che tra poco arriva, si diceva il Barcellona che ha vinto a Siena avrebbe battuto non solo tutte le squadre d'Europa, diceva Flavio, ma anche metà delle squadre NBA. Sei d'accordo? Sì, probabilmente aveva ragione, ma magari anche la stessa Siena se la gioca con qualche squadra NBA in questo momento, però chiaramente Barcellona a Siena ha dato una dimostrazione di superiorità impressionante. Probabilmente non riuscirà a giocare a quel livello tutto l'anno, però in quella partita ha dato veramente dimostrazione impressionante, e sono d'accordo con Flavio, probabilmente non metà, ma un buon quarto delle squadre NBA le potrebbe battere. 800 24 00 24, numero verde che vi ricordo. Tornando all'NBA, la settimana NBA è stata anche quella dell'abbandono del ritiro di Allen Iverson. Vittorio, Allen Iverson che va a Philadelphia, sembrava dovesse andare a New York, poi perché non l'hanno preso? Ma lì c'è stato un momento in cui avevano pensato seriamente, poi avevano paura anche loro, perché New York è una situazione un po' particolare, perché è un anno di transizione, lo sapevano tutti si aspettavano che fosse un anno di transizione, ma nessuno pensava che perdessero così tante partite, per cui quando si è trattato di discutere il discorso di Iverson la sensazione era proviamo a portare Iverson per dare un po' di movimento, creare qualcosa. Poi sono ritornati sui loro passi, perché l'idea era quella di creare una situazione cercando di sviluppare certi giocatori che possono essere dei cardini dall'anno prossimo. Avevano paura che con Iverson invece si tornasse indietro su questo discorso. Sì, resta misterioso comunque il fatto che questo giocatore, che è una superstar assoluta, non avesse praticamente mercato, torna a Philadelphia tra i singhiozzi, ringraziando perché hanno ripreso, però veramente nessuno lo voleva. Questo è abbastanza misterioso visto da questa parte dell'oceano. Sì, è misterioso anche dall'altra parte. Non è che i giornali americani si stupivano di questa situazione che si era venuta a creare. In realtà il fatto che lui ha sempre lamentato il poco utilizzo, per esempio a Memphis eccetera, creava delle situazioni di imbarazzo nelle squadre, perché se lui mette come condizione quella di giocare in quintetto, di giocare tanto eccetera, diventa difficile. Se lui invece avesse pensato di fare come ha fatto l'anno scorso Marbury, è stato fuori, a un certo punto è andato a Boston, è andato a Boston sapendo di giocare come backup di Rondo eccetera, giocando 10 minuti a partita. Ecco, se Iverson accettasse, come penso che abbia accettato, questa situazione a Philadelphia, probabilmente potrebbe essere ancora un giocatore determinante anche per grandi squadre NBA. Palla spicchi. Andiamo insieme, qui con me Vittorio Gallinari. Stavamo parlando di Iverson, mi ha detto che singhiozzava nella conferenza stampa di presentazione del suo ritorno ai 76ers. Sentite. It's not me. You know, I did a lot of things when I was young that I'm not proud of, but I think, you know, those things helped me to be the man that I am now. Dica parlare di Answer. Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno a voi. Iverson che singhiozza per il suo ritorno ai Knicks, una delle suggestioni della settimana, Flavio? È sicuramente una suggestione, e sicuramente se non hai, diciamo, una certa capacità di sentire, di provare le emozioni in maniera particolare con quelle quattro ossa e un po' di pelle attorno, non fai 20.000 punti abbondanti nell'NBA. Vittorio, non ti ho ancora chiesto che cosa in questo tuo round americano, hai visto tante partite, cosa ti è piaciuto in maniera particolare, squadre o giocatori? Ma guarda, flash che hai portato a casa, cartoline. Devo dire che io ho visto la partita con Cleveland, e la cosa che mi ha impressionato effettivamente, LeBron a un certo punto giocava come se fosse da solo, cioè poteva marcarlo Jeffrey, Danilo, chiunque. Mi ha veramente impressionato, io è la prima volta che lo vedo dal vivo, mi ha veramente impressionato per la sua capacità di fare le cose con una semplicità mostruosa. Questa è la cosa che mi ha impressionato di più in questo mesetto che ho passato a New York. Tende a giocare da solo, pregio o anche limite, Flavio? Cosa dici? Perché è un giocatore comunque naturalmente altruista, nel senso che se c'è un clamoroso passatore è lui. Io credo che abbia una presenza fisica e una presenza a livello di carisma e di leadership per cui è veramente difficilissimo giocare assieme a lui. Ci vuole una consistenza mentale per porsi vicino a LeBron James, che non è facile da avere. Non credo che sia un suo problema di individualismo, dico, per dire, alla stessa età, o meglio allo stesso grado di sviluppo tecnico, Jordan era enormemente più egoista, enormemente più a caccia di punti, anche proprio per come giocava, indipendentemente dalla volontà. È che questo è enorme in tutti i sensi. Un'altra delle notizie della settimana è lo 0-18 di New Jersey, che cambia allenatore, in panchina va general manager Kiki Van Dijk, che ricordiamo come grande tiratore e come anche inventore del famoso Kiki Move, un movimento di cui racconti ancora adesso in telecronaca, no Flavio? Come no, assolutamente usatissimo, è un general manager che è stato grande giocatore, come hai detto tu, che ha inventato Kiki Move, che ha lavorato tanto tempo con i lunghi ai camp del compianto Pete Newell. È la nuova tendenza dell'NBA: quando le cose vanno male il proprietario dice ok, mandiamo via l'allenatore, però caro signor general manager, lei ha fatto la squadra e lei se l'allena. Sì. Partite allenate da Kiki Van Dijk in carriera naturalmente zero. Ma naturalmente. Un'altra cosa, che un altro argomento sempre da NBA, aria bassissima a Toronto. È un momentaccio, 4 sconfitte in fila, se non ricordo male, 146 punti presi, 5 sconfitte in fila, 146 punti presi da Atlanta. Bosch che dice non siamo una buona squadra e insomma non riescono ad uscire da questo momento grigio. Non sembra una stagione vincente a Toronto. No, non sembra una stagione vincente, non sembra una grande chimica. Io penso che, per ironia della sorte, ci siano alcuni degli ingredienti che il vostro ospite potrebbe raccontarvi, magari in privato, che ha riscontrato in quel di New York, ovvero sia uno spogliatoio in cui ci sono diverse categorie di giocatori al di là del livello tecnico: quelli con un futuro lì, quelli senza un futuro lì, quelli con delle motivazioni, quelli senza delle motivazioni. Nel caso di Toronto non sono gli 8 giocatori in scadenza di contratto di New York, ma è la presenza di Bosch, che onestamente è su un binario morto. Però è sempre Bosch, però comunque è una presenza ingombrante per certi versi, e questo lascia a metà del guado una squadra che però non è nella situazione dei Knicks, cioè non ha azzerato tutto pensando di soffrire una o due stagioni con una prospettiva. questa è una squadra che teoricamente è stata costruita per fare bene o molto bene già adesso, quindi stride di più. Oggi Flavio, oggi Toronto con Washington, New York con Atlanta, mi pare di poter dire, non so se sei d'accordo, che questo Miami Lakers possa essere una partitina da vedere. Ma sì, adesso non mi verrebbe in mente un motivo per provare a pomparla, se ci fossero due giocatori uno contro l'altro di un certo livello, ma no, non mi sembra che ci siano. No, scherzi a parte, è una partita molto interessante e non solo per Bryant e Wade. Flavio, per chiudere, tornerò all'argomento con cui abbiamo aperto, cioè Danilo è esploso definitivamente con queste partite, ha cambiato marcia sul serio, Vittorio prima ci diceva problemi alla schiena ormai superati o in via di totale superamento, cosa vogliono dire queste partite che Gallinari sta mettendo in fila? Guarda, io penso che ci sia una certa differenza a partire da domenica scorsa, almeno io l'ho notata, poi dalla televisione è molto molto difficile e lì avete qualcuno che è molto più in grado di me di confermare eventualmente o smentire questa impressione, ma la mia impressione è che da domenica nella gara contro Orlando, la prima delle due contro Orlando, abbia proprio cambiato l'atteggiamento del corpo Danilo, mentre l'avevo visto un po' in difficoltà contro Indiana, faticando a piegarsi, contro Orlando aveva proprio un atteggiamento più da pallacanestro. Se non c'è una limitazione fisica, non può esserci nient'altro che ferma questo giocatore, almeno in questo momento in cui deve solo cominciare a svilupparsi a livello NBA. Poi fin dove possa arrivare credo che non lo possa sapere nessuno, certo. Ma salire i primi gradini lo do per scontato e da questo punto di vista mi sembra che sia importantissimo aver fatto così bene dopo la partita contro i Phoenix Suns a Orlando, dopo essere partiti subito dopo la partita, arrivati in albergo alle 3 del mattino, giocato un back to back, ancora con 20 punti, ancora con questo atteggiamento, stando 40 minuti in campo. Se non ci sono i condizionamenti fisici, ripeto, i primi 7, 8, 9 gradini si salgono anche rapidamente. Grazie Flavio, alla prossima. A voi. Vittorio, allora adesso tutti a New York per il Natale. Sì, tutti a Natale. Veniamo a New anche York. Noi, Natale a tutti New York. Invitati a New York per Natale. E trasmetteremo da là, oppure non trasmetteremo, manderemo in onda qualcos'altro. Scherzi a parte, grazie e a presto, Vittorio. Grazie a voi. Grazie a Flavio Suardi per avermi fatto compagnia, Franco Piantanida in redazione. Con lo sport torniamo stasera, sorteggi mondiali. Sarò qui con Giuseppe Cruciani nella Zanzara a raccontarvi i gironi sudafricani. Sorteggio che inizia alle 18, ve lo ricordo, ma intorno alle 19.30 sapremo tutto. Poi torniamo con A Tempo di Sport domani pomeriggio dalle 5 alle 6. Buona giornata a tutti.